che faccia ha la felicità. La felicità non è qualcosa di statico, che sta lì e non cambia, che puoi afferrare 10 anni come a 80 o 90. La felicità si mostra per quello che è, una sensazione duttile, che cresce, si trasforma e forse invecchia, proprio come facciamo noi. La felicità di un bambino nello scartare un gioco non può essere la stessa che prova un anziano nel ritrovare una vecchia foto. Quello che ci rende felici a 30 anni non avrà la forza di farlo a 80. L'inconsapevolezza giovanile, la voglia di spaccare il mondo, il senso di onnipotenza che rende quell'età unica e irripetibile, non potrebbero sopravvivere al passare degli anni. No, non esiste una sola felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. Fino a 10 anni la felicità è inventarsi un gioco. Tuo nonno apre l'armadio e quando si gira in mano il volante di un'auto, uno vero ti spiega, quello della sua vecchia 500 che si è fatto smontare apposta per te. Tu lo guardi strabiliato, lo ride, ti dà un buffetto sulla guancia e se ne va, mentre tu rimani ad accarezzare il fantastico oggetto con il pulsante del clacson al centro. Devi assolutamente provarlo. Ti siedi sulla poltrona e lo appoggi alle ginocchia. Ora anche tu hai la tua 500 gialla col tettuccio apribile. Di là ti stanno chiamando, è ora di cenare, ma dovranno aspettare. Adesso sei impegnato. Inserisci la marcia, impugni il volante con entrambe le mani e parti a tutta velocità. Tanto sulla tua strada non ci sono né semafori né incroci. Ancora per un bel po'. Dimmi che faccia ha la felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. A 20 anni la felicità è poter rincorrere la vita inconsapevoli. Il rumore della Vespa copre la sua voce, mentre il vento ti sbatte in faccia al mare che ruggisce contro gli scogli. Il mento di lei è nell'incavo della tua spalla, i suoi capelli ti svolazzano davanti agli occhi. Le labbra, ogni tanto, si poggiano sul collo e le braccia ti avvolgono, anzi, ti avvinghiano. Una attorno al bacino, l'altra quasi aggrappata al torace. È come se la stessi portando sulle spalle e ti stringe così forte che puoi sentirne il seno dietro le scapole. Fra poco vi fermerete sulla vostra panchina. Fra poco. Per adesso, invece, siete ancora qui, a sfidare l'aria, il vento, il mare, a rincorrere la vita, a ridere e a riempirvi i polmoni di questa strana brezza che una volta giunta nel petto provoca una specie di gorgoglio, come il bicarbonato che si scioglie nell'acqua. Forse 20 anni sono pochi per capire che quel gorgoglio è la felicità. Ma in fondo, chi se ne frega? Dimmi che faccia ha la felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. A 30 anni la felicità è un progetto. Le stelle di questa notte d'estate punteggiano il cielo mentre voi quattro ve ne state distesi sulla sabbia accanto al fuoco. Gli altri sono andati tutti a dormire. Voi invece avete ancora voglia di sognare. Perché stasera è la notte in cui tutto è permesso, persino sperare che non passi mai. Ti accendi una sigaretta e ti perdi l'ennesima stella che graffia al cielo. Ma fa niente, perché state parlando di donne, di futuro e di passato, di progetti e di quest'estate che presto finirà e vi renderà un po' più grandi, forse un po' più distanti. Ma per adesso il sole non è ancora sorto e le stelle continuano a cadere, perciò fai un tiro e cacci il fumo dal naso mentre ridi per l'ennesima stupida battuta. Che figata. Dimmi che faccia ha la felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. A 40 anni la felicità è qualcosa che resta. La televisione proietta il solito cartone animato. Tua figlia accanto a te, sul divano, gli occhi alla TV e un gelato sciolto che le incornicia le labbra. Tu invece sei sdraiato, le gambe accavallate in una posizione scomoda, come di chi non ha intenzione di cedere al sonno. La pioggia inizia a tamburellare contro i vetri e la voce di tua moglie sembra intonare una canzone dal bagno. Socchiudi gli occhi un attimo, poi tua figlia allunga la mano verso la tua, allora ti giri e la guardi. Ma lei è presa dal cartone, non sembra fare caso a te, forse neanche si è accorta che ora le sue piccole dita sono racchiuse nel tuo palmo. La pioggia cresce di intensità e tua moglie continua a canticchiare un pezzo che adesso riconosci. È Futura di Lucio Dalla. Serri la mano, chiudi di nuovo gli occhi e ti lasci infine vincere dal sonno senza nemmeno accorgerti. E stai sorridendo. Dimmi che faccia ha la felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. A 50 anni la felicità è l'imprevisto che torna a sorprenderti. Non volevi neanche venirci a questa festa, invece sei qui ad annoiarti. Finché incroci gli occhi di una donna che ti guarda di sottecchi. E allora d'improvviso ti vedi trasandato, con la cravatta allentata e i calzini un po' scesi. Ti alzi e afferri un bicchiere di vino. Forse potresti avvicinarti, forse sei rosso in viso, sei patetico. Tua moglie intanto ti trascina in un'altra stanza dove fingi di ascoltare le conversazioni e ti guardi intorno per cercarla. Hai già il cappotto addosso quando la rivedi in cucina. Stavolta abbozzi un sorriso, ma è un sorriso amaro, come il gusto che hai in bocca. Quando ti ritrovi per le scale, a pensare che sei stato proprio uno scemo a non avvicinarla. Poi siete già in auto e il tuo piccolo flirt è lontano. Solo quel gusto amaro resta a farti compagnia per tutta la notte. Eppure, la mattina dopo in auto, mentre vai al lavoro, inserisci un CD. E affanculo il notiziario. Basta solo uno sguardo per tornare a farti respirare. La felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. A 60 anni la felicità è la certezza di quel che ti circonda. Non ti piacciono i giochi di Natale, però ti tocca prendere una cartella e partecipare alla tombolata. Accanto hai tua figlia di 16 anni e dall'altro lato tua madre, che di anni invece ne ha 80. Tua moglie è di fronte a te, ogni tanto sorride e si lascia andare a uno sbadiglio. Chissà se è felice. Papà, guarda che il 77 ce l'hai tu, ti sta dicendo tua figlia. È vero, solo che stavi pensando a quanto ti piace quella fossetta che si forma sullo zigomo di tua moglie quando sorride, che poi è la stessa che ritrovi sul volto di tua figlia. Nevica! Urla tuo figlio, il ciuffo scompigliato e lo sguardo sicuro. Correte tutti alla finestra, tranne tua madre, che resta con la testa china sulla cartella di numeri, e Pippo, il vecchio Labrador, che russa sul tappeto mentre la neve continua a cadere silenziosa. A una certa età la felicità deve fare rumore se vuole farsi ascoltare. Dimmi che faccia ha la felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. A 70 anni la felicità e sorridere davanti a un album di ricordi. Ieri un amico ti ha mandato un'email con una foto. L'hai aperta e ti sei trovato davanti l'immagine di 6 ragazzi distesi sui banchi di scuola che guardavano allegri l'obiettivo. Ognuno è attorcigliato a chi gli è accanto. Il braccio su una spalla, la mano su un petto, il gomito su una coscia, una testa fra le ginocchia. E in mezzo a tutti fioriscono sorrisi e occhi carichi di luce. Hai sorriso anche tu mentre il volto si arricciava in una smorfia. Ogni tanto il sabato pomeriggio incontri due di quei 6 ragazzi che si volevano bene. Vi sorridete, ma non vi toccate più. A stento, una pacca sulla spalla e via. Però sei felice lo stesso per questo regalo. Così rispondi al tuo amico, felice che quel giorno di tanti anni fa qualcuno pensò di fermare per sempre quel momento. Felice di averlo vissuto. Felice di poterlo ricordare. Felice. Dimmi che faccia ha la felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. Da 80 in poi, la felicità è l'accettazione di ciò che sei stato. Quando apri gli occhi, vedi tuo nipote che ride in groppa al padre, mentre imboccano il corridoio per raggiungere la cucina dove ci sono tua moglie e tua figlia. Ti sistemi il plaid e metti un documentario sugli elefanti. Chissà come fanno a campare 100 anni senza stancarsi, pensi, prima che il sonno venga a farti visita di nuovo. Quando ti svegli, c'è un film alla TV. Tuo nipote con la testa appoggiata sulle gambe del padre che riposa, la fronte sulla spalla di tua moglie addormentata, sul bracciolo del divano. Tua figlia invece sorride e ti afferra la mano ossuta e piena di macchie. Poi torna a guardare lo schermo, cosa che tenti di fare anche tu finché ti appisoli di nuovo. La tua mano nella sua, come tanto tempo prima. E anche stavolta sorridi, come 40 anni fa. Di questo non ti sei stancato. Dimmi che faccia ha la felicità. Dimmi che faccia ha la felicità. Dimmi che faccia ha